canale 10, ti cambio. Hola, canale 10, cambio. Pronto, pronto, pronto. Chi parla, chi parla, chi parla? Mi piacciono anche qua, mi. Sto bene, sì. Ok. Sì, sto bene, sto male, ciao, ciao. Cosa c'è, partita? No, non sei arrivato. Parla qua. Che cosa? Assolutamente no. E allora perché non parli qua? Sta iniziando il traffico nelle PD, eh. Sta iniziando il traffico. E cioè qualcuno non del gruppo? Assolutamente no. E allora spiegati, no. Mandami un messaggio, se è roba che non si può dire qua. Messaggio WhatsApp. Cosa, Marco? Ho detto, mandami un messaggio WhatsApp per spiegarti meglio, se non si può dire qua. Aspetta. Buonanotte. Aspetta, aspetta che te lo mando, cazzo ma sottoci. Manda, manda. Guarda che te l'ho mandato, ascoltatelo. E ascoltatelo tu, mi, da andare a spifferare gli altri. Certo. Sto ascoltando, ho sentito, sì, la situazione è chiara. È chiara. Va bene. Sei qua, sì, speriamo che entri Nazzarino, che entri tutti gli altri, dai. Vediamo se c'è Valerio. Vabbè, Valerio, oggi sì che hai la voce moggia, sembri davvero Giuseppe. Un fattorino. Vabbè, cocomane. Non sei uscito, Natale, oggi? Sì, già sono uscito. Già sono uscito, solo che sono qui adesso. Mia moglie se n'è andata a messa e io sono qui. Eia, allora c'è anche Claudio. Vabbè, io sono andato alle 3:30 così, sono andato a Plattamona a fare un giro, volevamo portare da mangiare i cani e c'era sempre quella maggiera mia, purtroppo i cani erano sempre dove lei, sempre dove lei, quindi gli ho detto glielo do io dopo, invece noi avevamo piacere di darglielo noi, così ci riconoscono sempre che siamo noi i benefattori, a parte che ci hanno riconosciuto lo stesso, i cani ci hanno fatto le feste. Così, quella è sempre lì, roba da matti, io mi chiedo come ha fatto a passare l'inverno e come farà a passare questo, se lo passa pure. Poi le ho fatto vedere a mamma lo scempio del quinto pettine, che hanno fatto tutti questi stacci dove non puoi nemmeno entrare, tutto dei settori fatti con le canne. Ma cosa serve questo spreco di spazio? Proprio il sindaco di Sosso doveva essere fatto ubriaco per fare una porcheria del genere. Una porcheria, poi questo ponteggio che fa curve, curvette, invece di andare dritto per in spiaggia, hanno fatto tutti questi giri, questi Guarda, le stanno studiando tutte per fare scappare i turisti, perché se non trovano parcheggi i turisti si buriano e se n'andano. KK. Sì, mi pare proprio di sì, ma Sosso fanno vino buono, capito? E quindi chi è andato a Sosso a comprare il vino? Tu? No, no, Marco era lì, mi ha fatto l'udire cosa ha fatto il sindaco, doveva essere cotto. Ma Claudio forse l'aveva già visto il quinto pettine come l'hanno ridotto, hanno fatto una mini rotatoria, tutto il resto è stazzi per le pecore. Non ho capito a chi giova questo schifo che hanno fatto. L'ho visto. È roba da matti, proprio stazzi per le pecore, non ci puoi nemmeno entrare perché sono chiusi. Magari ci andavano i bambini a giocare, se le avessero aperti, niente, chiusi. Vabbè, lasciamo perdere, sennò insulto e poi mi denunciano per diffamazione via radio. All'usinago di Sorso. Ma lì è business, Marco, cosa pensi che sia? È soltanto business, capito? Per far sì che entrino soldi nella cassa del comune di Sorso, altro non è, perché per il resto non hanno fatto assolutamente niente, è uno schifo. E che razza di business ci può essere se la gente non ci va poi? Non ho capito, perché se la gente non trova parcheggio se ne va. Ho capito, ma quelli che trovano parcheggio vanno in ballo a Natale, capito? Sì, ma lì non è nemmeno a pagamento, anche perché se è a pagamento ci sono pochissime macchine. Anzi, una volta era a pagamento, cioè se il socio voleva guadagnarci, faceva a pagamento, facevi pagare 2 euro mattinata, mi pare fosse 2 euro la mattinata, tutta la mattina, tipo dalle 9 alle 2, e poi la serata anche altri 2 euro. Se stavi tutto il giorno era tipo 4 euro, o giù di lì, adesso non mi ricordo le tariffe. Almeno guadagnava da quelle, invece proprio... Non lo so cosa c'ha la cacca che c'ha in testa la gente, non lo so proprio. Va bene, c'è anche coso, Valerio, eh? Vai Claudio per Valerio, dai. Non sento Valerio, ciao Valerio. Sì, ma dove c'è Camboni, alla Marina di Sorso, proprio giù, dove c'è il ristorante, pizzeria, lì è tutto a pagamento, è grande quella piazza, capito? Lì è tutto a pagamento. Poi se tu ti riferisci alla strada, dove prima parcheggiavano nella strada e hanno fatto l'ippodromo di Chirifani, lì è per questione di sicurezza, capito? Perché le macchine d'estate lì è un casino, la strada si restringe un bel, si restringe troppo, capito? E quindi può essere pericolosa, tutto lì. Vai, vai. Carina, più che carina, sì, diciamo che è abbastanza ordinata, pulita, però hanno fatto alcune cose che non, secondo me non servivano a niente. Però c'è la voce da Giuseppe. Vabbè. Giornate così sono, questa giornata, questa festività dei santi, un mercoledì ti dico proprio, una giornata morta, vabbè, avanti Natali, riprendici. E cosa riprendo, non mi sente Valerio? Lo sai che non ti sente Valerio, quasi non sente manco Giulio, cosa vuol dire, Valerio c'è una zona particolare. Quella zona lì per te, e poi la Giulia è un po' chiusa per Alghero, quello rimane all'interno, però beh, pazienza, vediamo un po', aspetta, sto controllando qua, ok, Marco riprendici, sì, Marco è impegnato un attimino dall'altra parte, va bene. Va bene, tanto Valerio rimane in quel X, ha detto, quindi non sei uscito stamattina? Sì che sono uscito, stamattina dopo pranzo sono uscito, adesso mia moglie è andata a messa e io sono qua. Ehi, ma stamattina sono andato da solo perché mia moglie è andata ieri, sono andato da solo in moto, sono andato al posteggio, sono andato al motorino, la cimitero, ho fatto il mio lavoro e adesso basta, stasera a casa, tanto già vai, è già buccio, ma sono in Sire, è già buccio. Alle 5 e mezzo lo sai, no? Che fa buio. Mamma mia, sembra notte fonda, capito? Sì, lo vedo, c'è la luce accesa pure, il lampione, dimmi tu. E qua è già tutto illuminato, il bel giardino. Hanno cambiato i sensori, l'orologio, intanto erano messo alle 17.30. 17.30, prima era alle 8.30, 20.30, insomma ricordo. Cambiato anch'io l'altra volta. Va bene. Signor, aspetta un minuto, che così ne approfitto, visto che Marco si è assentato, sta parlando al telefono dall'altra parte. Vado ad andare a mangiare a Filippo, arrivo subito. Di là poi hai provato, arrivi sempre, prova a vedere se arrivi là. Non ti ho sentito. All'arrivo. Basso basso. Vabbè. E cosa è successo? Gli ho messo quella di fuori, e fuori è l'antenna, quella di su. Quella che c'è sotto l'antenna? Ehi. E come mai? Cosa stai usando? Quello blu. E come mai? Prova. Non mi senti a me? No, c'è qualcosa che non va alla lampadina. Non c'è il segnale, non c'è niente. Prima c'avevi il segnale. Come mai? Questo devi sapere tu. Prima c'era il segnale, non senti manco meglio mai. Ma non mi devi sentire basso, mi devi sentire bene. E io ti devo sentire bene. Come l'altra volta, ti sentivo benissimo. Asco, io non ho toccato niente. Cosa, Natali? Non ho toccato nulla. Non lo so cosa c'è. Non hai segnale, mi apri a malapena lo squelci. Mentre invece prima ti sentivo bene. Come mai? Poi non senti manco a me. Ah beh, fettidini, no, non me ne frega nulla. Non ne uso, vuol dire. Io, beh, giusto così per fare due prove. Quello è un monitor per noi, no? Non è che dobbiamo chiacchierare e fa burrotto e confusione. È giusto così nel caso ci serva, capito? Non è a livello del PMR. Ok, no, ma scusa, se arrivavi prima, non ho capito perché sono arrivi. Vabbè. Dai una controllata quando c'hai tempo. No, vado a mangiare, andare a mangiare a Filippo. Ok, dai. Dai, arrivo subito. E beh, tu ti hai detto l'acciadere siete. Cosa? Natalì, e beh, la lingua avete perso. Ero al telefono con mia zia. E cioè è arrivata la pappa a me, quindi sto mangiando. Parlate un po', ma siete sempre morti, siete, boh. No, che sto andando a mangiare il cane, che è Claudio. Capito? Mangia, mangia, dopo come arriva mia moglie mi faccio servire quel budino per fare merenda al creme caramel, pauroso. È buono, Poi c'è l'amaretto della Ela, con questi gusti, oh cameo, amaretto, cioccolato. Invece mia zia mi fa una cosa che si chiama panna cotta sopra va il cream caramel lo stesso, ma è la mano di Dio, è da quanto è buona, buonissima. Io oggi sto mangiando ceci, zuppa di ceci che mi piace un bel, fa anche scorreggiare. Ah, sta attento, sai che cazzo cudica che mi traglia da cun. Anzi no, non ceci, pasta e ceci. Pasta e ceci, capito? Non ci vengo a casa tua a farti visita, che tu sei pericoloso con i ceci. Mio c'è qualcuno sotto. Edio. Bene, fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sto trovando. Non fortissimo, però limpido. Sai cos'è? Non mi sono regolato, aspetta, non riprende, va? No, sai, c'è il volume non regolato ottimamente, però un po' amplifica, cioè, non lo so, che microfono è prima di tutto? 1, 25. Ricordati che se lo avvicini troppo alla radio, l'altoparlante ha un po' di monitor, anche se lo metti a zero, c'ha appena di rientro, non è un rientro ref, è proprio fatto così l'apparato. Quindi allontanalo un po' e alzalo anche, dimmi a quanto ce l'hai. No, ce l'ho manetta. Allora domanda, il trimmer della M dell'apparato è a manetta? Perché va messo a manetta, io l'ho fatto e c'era un abisso. Probabilmente tu ce l'hai chiuso. Dovrebbe essere poco meno della metà. Però caspita, adesso non mi ricordo, è passato un po' di tempo, non mi ricordo qual è il trimmer. Non mi ricordo nemmeno se c'è la sigla tipo AM mod. Comunque se lo metti a manetta con l'amplificato è una bombetta. Adesso credo che sia chiuso perché più di tanto non spinge. Copiato? Natali, lo senti via Elio Piuma? Certo che lo sento. Eccomi qua, Ehi, è entrato Elio, scusate che ero al telefono. Sto mangiando anche. È entrato Elio, sta facendo una prova con la mia BP5 e adesso con la Delta, su quel baracchino, il 5005 Intec. Vai Elio. No, molto meglio l'altro. molto meglio l'MB più 5. No, no, metti l'MB più 5, ti stavo ascoltando con meglio. Al telefono non eri tu di là, Marco, allora? Di là dove? Ma in radio? No, io ero al telefono con mia zia per un bel po'. E poi è arrivata la pappa, dimmi, perché? Chi sta chiamandola? No, no, no, pensavo c'era... sentivo gente a parlare, pensavo che eri tu, vabbè. Prova l'altro microfono, Elio. Manca Paleone, questo è 10, quello là è 5. Basso, perché basso? Quello sia manetta. Sì, ma i toni c'hai pure, a quanto ce li hai i toni? I toni sono a manetta, così sono a 5, così sono a 5, così sono a 3, 1, 2, 3, 4, 5, così sono a 1, a 0, 1, 2, 3, adesso lo rimetto a 5, 1, 2, 3, 4, 5, adesso lo rimetto a 10, 1, 2, 3, 4, 5. No, 10 non serve a niente, tu ovviamente a 10, tutta 10, boh. Metti i toni, metti a 4. Ricordo tutta manetta, controllate se la batteria è buona e il Mickey Gain è al massimo di quella radio. Diciamo che è buona, però tu non sai, non so il padrone di chi era, se era tuo o di qualcun altro, forse la LC M non è stato aperto, perché io quando ho fatto differenza con l'amplificato, no, e con normale, tra LC chiusa e aperto c'era una differenza notevole, amplificava molto molto di più, capito? Però adesso ripeto, provo a controllare in internet perché non mi ricordo qual è il trimmer. Guarda che sono microscopici, bisogna fare piano piano, con una precisione chirurgica lo devi muovere piano piano, fino ad arrivare al fondo scala, che non sempre lo trovi, tende a fare il giro completo, capito? Accendi la monitor. Ma va bene così, Elio, è perché ce l'avevi a 10 il tono, lascialo stare a 3 o a 4, capito? Così va benissimo, non c'è problema. Va bene, va bene. Un bacio alle volte tu, ti sei tutto distorto. Sì, va bene Elio, va bene. Per me va bene, a 3 il tono e al massimo il volume va benissimo. Avanti break. Signor Gianni, a non gridare, abbassare le voci, mi serve il disordio. Buonasera anche a lei. C'è Elio, è Natalino, Marco e io. Vai per chi vuoi. Ciao, buon QRT, riprendi Marco. Sto mangiando, riprendete voi. Sì, ma ti ho detto di tenere la monitor accesa, non hai inteso, no? Ok, va bene, mangia allora. E allora KP2, non gridare però, non gridare che mi stai battendo il giuglio. Non posso mettere la monitor, c'ho il digitale acceso, dobbiamo fare una prova, poi appena finiamo, tra pochi minuti rimetto il monitor. Ok, ok, va bene. Ehi, ecco, stai usando quello che ti ho dato io, la radio. Una pompa maledettusia, un bel pompa, va bene quella radio, ho fatto l'affare la grande, di Ubuntu. Va bene, e il demolitore, se non è quello, quello P5, si usa normalmente, capito, anch'io ce l'ho, però non posso tenerlo, non posso tenerlo tanto acceso, capito, perché altrimenti il coppia usù per fare quei lavori lì ci vuole quello più potente, capito, tutto qua. Quindi io sto usando il 440 con l'MC 85, 85, senti che radio. Sì, è ben prefissato, allora, questo prende la corrente direttamente dal coso, dalla radio. Aspetta che spengo il PMR, che non mi interessa niente. Sì, la corrente dalla radio come l'MC60, però c'è il parametrico, questo c'è l'equalizzatore parametrico, capito? Quindi l'ho regolato e questo è il risultato, funziona molto bene. C'ho anche l'80 che funziona molto bene, te l'ho detto, per quella radio là funziona molto bene anche l'80. E c'è da mettere il connettore che ce l'ho a 8, non l'ho mai messo con il nuovo uomo, non è mai messo neanche, non è mai stato messo neanche il connettore, figurati. Invece questo c'era già il connettore. Ok, dai, rilancio a Natalino, avanti Natalino. Ehi, salutami a Gianni, caso mai non mi sentisse, che sono alquanto basso. Sì che ti sento, benissimo. Già ti sente Natalino, Gianni, non ce n'è problema. No, vanno bene, sia l'80 che l'85 col K vanno benissimo. Questo addirittura sembra che sia ancora più alto del 60 come livello microfonico, però per lo IESU l'80 è favoloso, capito? C'è anche bellino come microfono, non è brutto esteticamente. L'85 è un po' più grande, prende più posto, però è un signor microfono, capito Gianni? Però devi abbassare appena appena il macchinino e allontanarlo, perché stai andando a strappare. Già, via che ci sentiamo, però vorrebbe più distante il microfono. Vai a strappare che c'ho la voce troppo alta tu. Lascialo così, non gridare, lascialo così. Lascialo così adesso, va meglio. Non gridare già, perché te l'ho detto, spingi un bel con la radio. Spingi un bel. Ma infatti il prezzo era così. No, io li avevo presi tempo fa, me li avevano dati a vendere e me li sono tenuti, capito? Però c'ho un 80, ti ripeto, nuovo che non c'ha manco il connettore, non è mai stato attaccato neanche il connettore, e anche quello 60 euro si può comprare. E non sono riuscite come radio, te l'ho detto, io appena sono uscite mi piaceva più del 140, esteticamente, no, è bellino. E quando però poi l'ho usato la prima serie, prima io ho avuto il 757, poi ho detto ma è uscita la seconda serie e ho comprato la seconda serie, il GX, poi la terza serie, il GX2, e risultavano tutte e tre uguali, no? Non hanno niente di che, non hanno memoria, non hanno finite, non hanno nulla. Sono delle radio che ha fatto la IESU per andare in concorrenza con la Kenwood quando ha fatto il 140, capito? Però non hanno niente da fare, infatti li avevo venduti e mi avevo comprato sia il 140 che sia il 80, sono risultati superiori al 100%, capito? Però te l'avevo detto che non sono a livello della Kenwood quelle radio. Non mi piace. Vabbè, no, guarda per l'80 e l'85 ce l'hai visto, no, 85 me lo sono tenuto io, mentre l'80 è in vendita, capito? L'80 l'ho messo in vendita a 60 euro, ma è nuovo, e ti ripeto, non è mai stato saldato il connettore, capito? Ed è buono, buonissimo microfono, infatti avevo intenzione di saldare il connettore e di trovarlo qua sul 430 o sul 440, però poi ho detto no, fanculo, lascio stare così, non mi interessa. Gappa gappa, avanti Natalì. Davvero? Sì, è vero. Che ribelli. Oi, buonasera a tutti. Hai detto un bippi che vai? Massimiliano. Dimmela. Ho detto un bippi che c'hai, corto, cos'è? Aspetta, lo tolgo. Il bip scusiminato, cioè. E si è affugato questo bip. Ah, il bip di quello là, è del serpente. Sì. di quello là e... infatti io gliel'avevo tolto quando l'ho usato, perché non mi piace. L'ho tolto anche io là. La radio è fenomenale. E Bibbia che vuole darti una... Vai, cuocuomane. Ok, dai, riprendi. Marco, vuoi rientrare? Aiuto, che c'è Capri... Peppino di Capri c'è. Dai, Marco sta mangiando, che... Va bene, va bene. Vabbè, Massimi, tutto a posto, dai, vai per Capri, per Peppino di Capri. Ma non lo so se mi sente, là. Ciao Capri 2, buonasera. Sì, sì, ti ascolto, ti ascolto. Devi abbassare appena appena però. E anche Mechighi più che altro. È un po' più chiaro, là. Così mi senti lo stesso, Capri. Va bene. Ok, ok. Ma mi stavo ascoltando a poc'anzi, mi sa che c'è anche Elio, o sbaglio? E quel Rick Elio che stava chiudendo il microfono. Ah, cappagattola. Va bene, va bene. Vabbè, Capri 2, questo problemi non è anche arrivato da parte, eh. Kappa, quello è un signor baracchino, te lo posso garantire, io l'ho usato. Una ratta Massimiliano a provare, ma una bella bestia, quella. Un bip che va strozzato, però il resto va bene. Oh, Massimiliano, l'avevi già sentita la prova con questo, vabbè, l'85 col 44, l'avevi sentita la prova col 43? No. Guarda, ho attaccato, devo solo attaccare l'antenna che ho attaccato la connessione dell'altro, dell'ICOM che sono uguali. Allora, ti riconto, questa, come ti sembra? Questa è il 4.40. Questo è il 4.40 con l'85, te l'ho già detto, la bomboletta. Una bomboletta, adesso io ti attacco il 430, senti la differenza, senza toccare niente. Ok, allora il 4.40 è a 1.5 di Mickey Gain. 85 a 5 di Mickey Leve, lo lascio a 5, guarda la differenza, senti la differenza, sentirei più brutto, ma senti la differenza. Guarda Massimilia, così è, questo è il 430, sempre con l'85 e il livello microfonico sempre a 5. Più bella questa. È più bella questa, spinge di più. Guarda che allucinante. Ma il problema è che non distorce, e mica sto gridandomi, non distorce, non distorce, un abbinamento allucinante, io non me lo ricordavo così. Non distorce perché c'ha l'equalizzatore. Regalo, regalo. E cosa regalo? Se non hai Gevo, tu cosa ti regalo? Tacca Dio alla bippa. Hai capito Massimi? C'è una allucinante, c'è una... io sono in cuffie, ma c'è un abisso. Ehi, ma sai una cosa, chi va all'equalizzatore non distorce. No, lo dico io, la sta lì perché non distorce. Perché c'è quella resistenza là. C'è quella resistenza, ma nel microfono? Nel microfono, ma sì. No, tu non devi essere che una resistenza. Un ponte che avevano fatto. Ah, del 430? Sì, gliel'avevo staccata prima, gliel'avevo staccata. E poi gliel'ho riattaccata, gliel'ho risaldata, capito? Dici che sia quella? Ma per quella che non strappa. Qui la puoi mettere anche al massimo, capito? Tu seguiti la modulazione al massimo, non strappa lo stesso. Sì, sì, sì, sì, mamma mia, come sto, ma da favola proprio, vabbè dai, no, attacco il 440, perché il 430 c'ha poche memorie, e mi rompo le scarpe, quello là invece giro e va in continuo, capito? La fabbrioscia, va, e metti quello là, va, più avanti? Beh, solo un bip, no? Ricordati che quel bip è regolabile sia in frequenza che in lunghezza. Io l'ho messo 100 milliwatt, frequenza 3000 Hz, tipo colt. Menù. Guarda, adesso sembra un bip tipo multimode 3, multimode 2, Viking 2, Concorde 2, così sembra. che non si muove, non sai cos'è? Scusate per gli altri, io non ce l'ho sotto il baracchino, però è seppellito nell'armadio, non ce l'ho davanti per il VIP. Casomai te lo posso diseppellire domani, per esempio. Capito? Facciamo le prove. No, no, dai, non se lo posso rompere. Dai, riprendete voi. Comunque Claudio, te l'ho già detto, esce bene. Te l'abbiamo detto tutti. Aspetta, no, non riesci a strappare. Anche volendo mi sa che non riesci a strappare. Ma non strappa neanche con 4.40, non strappa perché c'è l'equalizzatore che blocca tutto. Ancora non avete compreso. Vabbè, l'equalizzatore è equalizzatoni, cosa vuol dire blocca tutto? No, la manda a strappare, manco 4.40 strappa, e se no ci giochiamo quello che vuoi. No, io adesso sono col 4.40 e no, non sta strappando. Se tengo questo tono di voce con l'MC60 strappa, Reggiane Natalino. Evidentemente l'85 c'ha, col parametrico riesce a mantenere le tonalità e l'acuto magari più corretto e non fa strappare, capito? Davvero? Sì, è vero, sì. KP2, questo è il microfono che fa per te, mica con quella radio. Gaino e trappa già. L'85, l'MC85. Non hai manco WhatsApp, che se no ti avrei fatto la foto, te l'avrei mandato. Cazzalago. Eia, down e up, bianchi, lock, PTT, tutto bianco F, con le sfumature nere, e sei un ventino lui. Poi se mi chiede 80 gimbe. Avete parlato in quattro, cosa hai detto? Te lo sto dicendo, c'ha l'equalizzatore parametrico, ok? Parametrico però. Ma Lux non ha niente a che fare con questo, col che avuto o Capri, questa è un'altra ruba, assolutamente, io l'ho avuto, ma questo va molto meglio. Va bene, riprendi Massimiliano. Chiudi la porta. Chiudi la porta, avanti break. E allora, com'è stato? Ok, a proposito, tu ce l'hai il catalogo della Internet? No, già, l'ho prestato. Io con il catalogo sono un po' stantio, li tengo sempre tutti in ordine, poi me li chiedo, li presto e non me ne tornano più. Alza chitarra radio, mi pare 30 la Dumba. Così bene va, bene. Oh, benissimo. Ciao Massimiliano. Lo trovi online il catalogo dell'Intec, online, sul sito. Ti ringrazio Marco. Ciao a tutti, comunque, buonasera. Ciao, buonasera. Alza, vedi la mia microfono a bocca. Perché che cambia parlando, perché stavo facendo scaldare. Io pongo il Galaxy, mia amore, con l'MB+5 e poi la cuccetta lì su. Avanti, Peppino Riccapri. Aspetta un attimo, già. Mi hai sentito un po' tanto, comunque se lo vuoi te lo presto il catalogo. Ma perché Natalia, anche tu stai facendo la collezione, mica il Capri 2 è una valigia. Quante ne hai il catalogo dei baracchini o Gianni? Buonasera, ho finito adesso, ho capito di attaccare questo apparato, spero che stia uscendo bene. Ci viene tutto andato a dire, sono la radio che sono parlando, boh. E la ragione, perché tu ne hai uno che esce bene e attacchi gli sigarraggi che non servono più, oramai sono obsoleti. Bravo Gianni. Ah, questo è un altro, eh. Allora dove c'è la mappa si prendi, Mi serve lo Yaesu, me lo dai a me per ascoltare. Gianni, non so se te ne sei accorto, vai da 7 a 5 ogni tanto. No, già, controlla tu. Bene. forse è evitato male PL, che qua è a posto. Ah, no, e voi uscite bene. No, va già, non lo lascio conare. No, quello lì è, non era il mio, già, io sono 430-440, non li do. Lo senti, no, quello non l'ho andato a vendere con un problemino da niente nell'accensione, capito? Ma ad un prezzo di un Galaxy, meno di un Galaxy, ma quando l'ho provato mi sono spaventato, c'è una potenza, una ricezione, una trasmissione che non fa nuova. Ho pagato una fesseria, lui non lo voleva, ho detto lei a Liro, lì se l'ha preso e ha messo dentro la scatola quello che ha comprato in continente ed è sempre della tendeghiscia. Non c'è due apparatici, questo cos'è 440, lo stesso capito. Cosa c'è l'accensione? Praticamente non accende. Una volta solo lo faccio, praticamente io accendo il mio e va direttamente ai 27, capito? Perché è memorizzato ai 27, quello lì quando lo accendi va in 20 metri e quindi lo devi mettere in 27, una cazzata, ma se vedete l'ha pagato a livello di un baracchino, ma è nuova, perfetta, io ho provata, l'ho usata in tutte le sue funzioni, è perfetta, ma una potenza allucinante se avete. Niente, glielo porta, magari è una fesseria, capito? Se lo fa controllare. Tutto lì. Ma infatti adesso non l'ha fatto più. Poco fa lo faceva comunque. Andava da 7 a 5, scendeva di colpo, poi ritornava da 7. Sì, magari ha attaccato male GBL. Va bene, facciamo girare. Marco, è finito di strafogarti? Sì, quasi, manca solo il dolce. Quello più tardi però, dai. E quindi dai, adesso Capri 2 sta andando bene però, né troppo forte né troppo basso di radio, è perfetta adesso, basta che non tocchi nulla, non deve toccare nulla, capito? Va bene così. Sì, però adesso non lo sta più facendo, non è che ho più tanto male il piede. Già, invece questo è l'MC85 che differenza non ti dal 60, uguale o più forte? Però è bello forte, caspita. E no, è più forte mi sembra questo qua. Non lo conoscevo sotto questo aspetto. Se lo sai che ci sono le corde vocali. No, anch'io sono rimasto un po' così perché da tanto che non lo usavo, era dentro l'armadio. C'ho anche l'80, però l'80 è in vendita, ormai l'ho tenuta, l'85 non lo tengo. È praticamente il risultato più forte del 60 con la tonalità uguale, però non strappa, puoi sollevare la voce, capito? Infatti l'ho detto oggi a Gianni Capri 2, ho detto lei a Dio su 85, così almeno non strappi, perché avendo il parametrico riesci a tenere un po' più strozzato il tono acuto e quindi non ti fa strappare, capito? Sì, più tra la voce, è normale. Se vado avanti mi sbatto al muro. Così. Andare. E beh, come sta andando la situazione? E devo uscire così basso per forza perché se no distrutto. Come metto più di 5 watt su QVT? Ma com'è il rimascio? Le 9.30, no? E anche se siamo vizzini, cosa vende? Con quanti watt sta scendo? Con 5? No, con 4 per sicurezza. Perché io. Disturbatore di televisioni, Natalino, e di computer anche, eh? Mai sentito una cosa del genere? E vai, abusivo, pirata. Natalino con il computer. Natalino, te lo dico di la volta del capo che è da baracchino in macchina. Senta, mica è buona, che sta facendo la serata vestita così, e ti ha sentito dentro. Cosa, dentro il capo, te l'ho sentito la signorina. Ogni figura di merda, c'aveva le mutande celesti. Dai, io vi saluto, là. Buona serata, buon tutto, buon proseguo e ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, Massimiliano, ci sentiamo, buona continuazione, dai. Se non puschi quel cartaceo mi fa piacere, dai, così almeno ce l'ho in cartaceo, anche se c'è su internet. Vieni qua che lo do io il catalogo. quello della Intec, no, non volevi più quello. Se ce l'hai la tariffa, va bene, allora dai, perché devo guardare una cosa da 3,40. Io ce l'ho del 1985. Ma se non eri mai tornato, come fai a avere quel catalogo? Dimmi come fai ad averlo. Io li posso avere, io ho tutti i circuiti elettronici ancora, capito? C'ho tutte le i catalogo del Link e anche del Midland ce l'ho. Però quelli che c'ha già nei KP2 sono datati diversamente. Anche io quello del Midland ce l'ho. Esatto, esatto, quello della Midland. Ma anche la Pantana c'hai. Kappa. Andava, dai, se vuoi la Pantana mi fa la cortesia. Ciao Massimiliano. Avanti per i saluti. Ciao. E che devo salutare? Massimiliano. Ehi. Ciao Massimiliano, un abbraccio grande, capo di Bugnetta. Ciao Massimiliano. Come Julio? E se la ridi? Ma Julio! Già lo so, lo so. Però è bello fare con le collezioni di No, io ho tutte le radioriviste, che però una parte radioriviste aree, una parte le ho messe sui Massarra, le ultime del 2015 mi pare, sì, 2015 ce le ho ancora qua giù. Però fra un po' le metto anche assieme alle altre e poi a Carnevale, a San Giorgio le porto in Piazza d'Italia e le brucio tutte. Eugenio, rilassati. Io lascio entrare direttamente Eugenio, che non sentiva Capri 2 e stava chiamando. Vai Eugenio, buonasera. Buonasera a tutti, se vuoi essere la verità, la senti un po', perché l'unità non sentivo niente altro che mi mollasse. Comunque buonasera a tutti, come abbiamo tutto a posto? Lui tutto a posto, e tu la nave entrata ce l'hai in porto? Vabbè, io ti baga ne va a travagliare, dai. Vai a lavorare che adesso devi pagare la pensione a me. Ma 57 anni bisogna dare pensione. Così è, 57, io lo auguro a tutti di andare. Io ci voglio la pensione. No, lunedì ero al patronato, tutto fatto, già a posto. Primo di dicembre dovremo avermi già la pensione. Auguri a godertela. E anch'io dovrei andare tra poco. Sicuramente vado anch'io. Ti mando la foto già di quanto mi danno. Corde. Da paura. 2002 a me, lorde. 2002 lorde quando arrivi a 65 anni. Esatto. E quello a me è un po' di più. Quasi 2006 lorde quando arrivo a 65 anni. Io sto parlando adesso sto parlando. Perché mi danno il professionamento? Perché ho dei problemi di salute. E l'attento hanno fatti male. Vabbè, ma tu non ce l'hai 42 anni di servizio già. Dove avevo 42 anni e un giorno, esattamente. E sono lordi 1723 mi pare, o 1623, ma cosa è già? Netto dovrebbe essere intorno a 1350-1400. E così anche per me non si sa cosa. Ho dei colleghi che sono andati in pensione per non quella cifra lì. E vabbè, tu sei capitalista, noi ci accontentiamo, capito? Sì, ma quando hanno 65 anni io li prendo adesso, dal primo dicembre prendo quella cifra, capito? È il conteggio contributivo quello. Contributivo, poi quando arrivo a 65 anni allora vi danno il retributivo che aumenta ancora in automatico. E certo che sì, già conteggiato, i conteggi sono già fatti, già è uno stipendio, io non me l'aspettavo, pensavo molto meno, era grande, 1400 euro senza far nulla, non ti basta, no? Mi pigliavo 400 in più, fendemi un guru. Infatti. Sì, vabbè, là, non è che ti facevo più figurare, già è un lavoro più leggero. Ma lavoravo, certo, facevo per i chilometri, di cosa, ma normalmente non è che facessi molta fatica. Cosa? È pesante, non ti credere che non sia pesante. pedale, ti voglio vedere, ti ha dei pedali di Eva, di cose, voglio vedere se sarebbe pesante. Io me ne ero scappato dopo una settimana. Invece quello che fa oggi è molto pesante, ma non ti gagli, ma ti lo do io, travaglio, vai. Ma lo sai che la tappigliana ha lavorato da noi, o Claudio? Da voi ha lavorato? Iscio Maria, quanto ha durato? Una vita, è fuggito. Non avevo dubbi, non avevo dubbi, a lui le piace la penna. No, no, era pesante per me, per il mio fisico era pesante, io mi dispiace, a quel ritmo non lo tenevo, dopo una settimana me ne sono andato. Poi non piaceva la politica con i clienti, si portavano le arance fradice, dice, queste ci hanno mandato, mi diceva la tipa. E mi diceva, metti a fottidini. Infatti il giorno dopo ce le tiravano a faccia le arance, capito? Cioè il cliente non lo devi nemmeno pigliare per il culo, da lì roba buona. Sì, va bene, no, comunque, brutto un lavoro, a mettere roba nei scaffali, la schiena pesava, la mia schiena non è normale, dovete capire quello, è compromessa. E già da allora mi pesava. Si basta, ci fosse giovanile. Cosa c'è? La scogliosi? Scogliosi! E che mi so farà di proprio? Infatti la scogliosi c'è. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Eugenio, vai a lavorare alle 8 che mi devi pagare la pensione, ti ho detto. A me è a Natalino, e fra un po' anche a Gianni. Claudio! Vado in bagno, Perché sei già? Io sono arrivato, Gianni è arrivato lo stesso, ma Gianni poteva tranquillamente continuare, purtroppo ha questa patologia e quindi diciamo va bene così, ma non va bene, non va bene, avrebbe preferito essere più sano, dimmi già. Sì, ma il tramonto che ho fatto l'altro giorno ha fatto il sole, non è ancora spettacolare, ma spettacolare dal magazzino. L'ha fatto anche mio fratello l'altra volta là, lì, nella Coltania, a Bolai, lui dice che era favoloso, no, non si vede un accidente, ho detto che i palazzi, no, andiamo là. Ascolta già, il conteggio te l'hanno fatto? No, ancora no, ma sto aspettando, devo fare un'altra visita, se mi dà al 100% poi valutiamo corsi da casa. Stai attento, fatti vabbè i conti, non ti buttiani. Il mio l'ha fatto l'Ipsi, a me mi è arrivata la busta direttamente dall'Ipsi, capito? Poi sono andato a fatto l'altro, lunedì l'ho fatto vedere, ho detto guarda se manca qualcosa, dal 76 ho iniziato a lavorare. Cooperativa Quattro Muri Porto Torres, SRL. Ma risulti tu? Ti risulta oggi? Non c'è scritto niente, non me lo ricordo. C'è scritto solo cooperativa Quattro Muri. Non lo so, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. 1976 c'è scritto dal 76 all'81. Questa cooperativa Quattro Muri, avevo 16 anni, come faccio a ricordare. SRL. Non so di. Non me lo ricordo, ho chiesto anche a mia madre, a mio fratello, che non hanno più 2 anni più grande di me. Non si ricorda neanche lui. Gli utilizzanni, già vuoi ti richia. Vabbè. E io credo che quelli valgono, valgono, a me il militare vale. Militare vale, vale. Io non te l'ho fatto imbarcato, capito? Mi ho fatto 8 mesi imbarcato a Livorno sul Vittorio Veneto. E poi sono andato alla Maddalena, sino al 24esimo anno. 2 anni praticamente ne ho fatto, capito? E quindi vale un bel quello, informati bene. Avanti, Marcolino Condor. Ah, non gli hai fatto militare. Però te la tengo che quello vale un bel, capito? Vale un bel. Vabbè, no, io ero convinto che avessi iniziato addirittura dall'81, 80-81, invece ho iniziato dal 76, avevo 16 anni compiuti, quindi sono proprio, addirittura mi ha detto il patronato che è sconfinato, quindi ecco perché c'ho una bella pressione. Va bene, dai, parliamo di altro, se abbiamo gli alloggi, importante campare tranquilli e sereni. Adesso guardo quello che mi ha mandato Gianni. Marco, ci sei o sei dall'altra parte? Aspetta che lo accendo. Ciao, oggi comunque sto lavorando, sto ancora lavorando. Non si sa ancora se vado, perché se non mi conviene non ci vado. Avanti Marco, Capri 2 ci sei, avanti, riprendi di Michelino, penso, dipende quale ha preso di pensione, se ha preso quella per invalidità, io ne ho 36, ti basta. No, Gianni, non ce n'hai minime e massime, no, non ce n'hai minime, sarei già andati con 35 anni, ma no, non è così, non è così, purtroppo no, non esistono più queste leggi, per andare senza l'età, quindi se non sei arrivato al 65esimo anno di età, devi avere 42 anni di contributi fatti, con i contributi scritti, come c'ho io, 42 anni e 6 mesi, ok, però siccome ho sconfinato posso andare lo stesso. Adesso, dal prossimo anno mi sembra, 2018-2019, lo portano a 43 anni per chi non ha l'età e 6 mesi e a 67 anni, ok, di livello massimo, soglia massima dell'età, capito? Non ce n'è più un minimo massimo, assolutamente. Solo per le donne, la legge è vecchia, mia moglie con la legge è vecchia, 21 anni di contributi e andata in pensione. La legge è vecchia però, la legge è vecchia, come quelli che sono andati in pensione con 35 anni di contributi. Ok, la legge nuova non ce n'è per nessuno, o 65 anni di età o 42 anni di contributi scritti, versati, non deve mancare neanche un giorno, e 6 mesi. 67 anni di età con 20 anni di contributi, rispetta la pensione sociale più quei 20 anni che ha lavorato, quindi un po' di più di della pensione sociale, cosa saranno? 600-700 euro, non di più. Ti ha detto la verità, perché la pensione invalidità quanto pensi che sia? Mio fratello prende 450 euro di pensione invalidità, ma perché c'ha una pensione del 100%, più però lavora, fa l'accumulo e pazienza, però lavora ancora, perché vuole andare in pensione col massimo, capito? Cosa pensi che sia la pensione invalidità? È 900 euro, Claudio. Non lo so, questo lo puoi chiedere a Natalino o a Gianni, che magari si sono informati, o la pensione di lavoro, quella che ho lavorato per 42 anni, no? Nel resto non so, che mio fratello, ti ripeto, c'ha una pensione di invalidità, le danno 450 euro, non ci arriva 430 euro, che però sta continuando a lavorare, capito? Non lo so, Gianni, hai sentito cosa ha detto Capri 2? Allora, la pensione di invalidità è una mezza fregata, io so che sono 900 euro, comunque, una mezza fregata, però, perché ogni 2 anni ti chiamano, per 3 anni consecutivi ti chiamano ogni 2 anni, praticamente verificano se tu la malattia che avevi per cui sei andato in pensione è ancora in atto. Se vedono che sei guarito da quella malattia te la tolgono, quindi puoi rimanere anche senza lavoro e senza pensione. La fregatura è quella. Aspetta, 900 euro se non stai lavorando, ok, quello lo so perché mi ha detto mio fratello, quindi se tu vai in pensione per invalidità e non hai altro lavoro, cioè non stai lavorando, 900 euro, se invece stai lavorando è di 430 euro, capito? Mio fratello è anni che la prende, non la toglieranno mai, capito? 900 euro, quindi 2 anni in pensione con 900 euro. Ci sono altre cose che, vabbè, ci sono altri calcoli che una casa deve fare. L'età e tutto quanto, poi si è stata a lavorare, tutte queste cose qua. Ha detto che praticamente se sono stata a 18 anni ci sono dei punti di più, eccetera, eccetera. È tutto da valutare, in concreto se io riscalco del 100% ne parliamo, se no, se non è il 100% lascia perdere perché non conviene. Vabbè, che punteggi ci sono in più? Che punteggi di quelli che hanno fatto a me? Che ho iniziato a 16 anni, cosa pensi che ti do che hanno il punteggio? Sono 2 anni di contributi, non è che troveranno i soldi, no? Hai capito? Lavoratore precoce, sono 2 anni di contributi in più che ti dà l'INPS. E basta, no? Che tu vada in Dinamo. Fatelo spiegare bene. Io c'ho tutto dettagliato, capito? Perché sennò questi 2 anni me li dovevo lavorare se non iniziavo a 16 anni, capito? Sono contributivi, non sono retributivi, fatelo spiegare bene. non è che sono i soldi, perché tu hai iniziato a lavorare precocemente e ti danno 100 euro in più, no, sono sempre contributivi, sempre tutto contributivo, retributivo non c'è niente, retributivo c'è solo dall'ultima busta paga che loro ti calcolano. Cosa succede? Ti fanno la retributiva sino a quando tu arrivi al livello pensionistico, quindi a 65 anni. E loro ti fanno i calcoli dall'ultima busta paga che tu hai, come hanno fatto a me, e ti fanno il calcolo se tu continui a lavorare sino a 65 anni. Allora, quello è il calcolo che ti hanno fatto anche a te lordo. Se tu invece vai via per una maniera o per l'altra, o per questioni di salute, o perché ti vuoi ritirare e non hai più cama, allora loro non calcolano più l'ultima busta paga, la retributiva, ma calcolano quella contributiva e ti danno la pensione in base ai contributi che tu hai sino al giorno che vai via, adesso però, capito, se non hai 42 anni di servizio. Quindi se ne hai 35, non ne hai 37, loro ti calcolano i contributi per 35 anni che tu hai lavorato senza l'età, meno arrivare a 42, capito miei? Questo è quello che io ho tutto scritto. Ma se ti hanno mandato lo storico da lì? Sì, sì, a me mi hanno mandato lo storico, ma questo me l'hanno mandato all'inizio di quest'anno. All'inizio di quest'anno, io ho visto che ero nella striscia praticamente dove potevo giostrare, allora mi sono fatto fare i calcoli dal patronato, il patronato li ha mandati all'INPS, lo sai che mi manda il patronato, il mio patronato praticamente, il mio sindacato, noi abbiamo anche il patronato, li ha mandati all'INPS, l'INPS ha risposto al patronato che la soglia mia era già praticamente arrivata e quindi praticamente sto andando 2 anni prima in pensione io, se no 2 anni me dovevo lavorare. Nello storico ti mettono la data che tu devi andare in pensione, che data c'è scritta, perché nello storico ti scrivono che vai a pensione dal, per dire, 2007, dal mese di gennaio 2008, per dire, data. Tu sai che devi andare proprio, ci scrivono giorno, mese, anno, tutto quanto. Allora, nella prima data dove io posso andare in pensione adesso, perché, ti ripeto, ho più contributi di te, vado il 31 dal 1 dicembre 2018, 1. Quella è la contributiva, ok? Per quanto riguarda retributiva e contributiva al 65esimo anno, vado nel 2028, sempre stessa data, 1 dicembre 2028. Io l'ho la stessa cosa, 2028 anche io, c'è scritto così, nel 2028, tra 10 anni. Comunque devo controllare bene, perché quando metto il sindacato mi ha detto che è impossibile, che dovrebbe essere prima. No, già, ma leggi bene, c'è scritto, quella è la data che noi arriviamo al 65esimo anno, perché abbiamo la stessa età, quindi al 65esimo anno tu puoi andare in pensione in quella data, capito? Quando hai compiuto 65 anni, tu vai in pensione nel 2028, come me, a 65 anni però. Se tu avessi avuto 42 anni e 6 mesi di contributi versati, saresti andato adesso col massimo, come che vai a 65 anni, la stessa cosa. Ah, ecco. Staremo a vedere se non conviene, non conviene. È tutto da valutare, si sta accadendo, non si pare nulla ancora. Loro ti stanno pressando, però devi valutare che poi il tuo avvenire è quello lì e quindi dobbiamo controllare bene. Sì, già, il discorso non fa una piega, perché assieme a me c'era un ragazzo, insomma, forse della mia età, che anche lui aveva raggiunto, mi sembra, 37esimo anno di contributi versati, con una patologia un po' più bruttina, ok, e non gli ha detto la stessa cosa, ha detto aspetta perché anche lui doveva fare un'ultima visita e gli ha detto davanti a me, se ti danno il 100% avviamo la pratica, se non ti danno il 100% è una fesseria, muri di fame, capito? Perché però? Perché? Perché anche lui non aveva raggiunto i 42 anni dei contributi versati, capito? Quindi se tu avessi avuto i contributi versati 42 anni e 6 mesi, tu andavi e dicevi, signore Belli, da domani, questi sono gli 8 giorni, da domani me ne sto andando, presentavi la pratica all'IPSI come ho fatto io e andavo in pensione col massimo, ok, col massimo dei contributi, quindi non avevi nessun problema, praticamente ti facevano il calcolo dell'ultima busta paga e ti scorporavano, mi sembra, il 20%, quindi andavi a prendere l'80-85% dell'ultima busta paga. Claudio? Oi. Ciao Claudio, ciao Gianni, buonasera, ascolta, volevo sapere quando vieni in validità c'ha Gianni, perché c'è noi in azienda, per esempio, c'è gente che ha avuto ictus, c'è gente che ha avuto quel problema, e gli hanno dato il 67% di validità, ha fatto, e prende una minima pensione, per esempio prende 1.500-1.600 di stipendio, e ogni mese dall'INPS le versa 1.000 o 1.100 euro. Contributivo, poi avremo 25-30 anni di contributi, con 67 anni di 67 secondi di validità. Gianni, quanti di validità quando ne hai tu? Io momentaneamente ho l'80%. Ho l'80, però non mi danno nessun assegno perché raggiungo il limite con lo stipendio, quindi non posso prendere assegni ulteriori. Sì, ma la voce c'è gente che sta lavorando, lavora lo stesso, sta lavorando, e ogni mese, ogni primo del mese l'Inps versa l'assegno in banca, versa, e noi da quell'assegno, l'azienda le trattiene, non so se sono 250 o 300 euro, le trattiene dallo stipendio, tutto qua. Ok, continuate, io vi sto ascoltando che sto facendo un lavoretto, avanti Gianni e ciao a tutti. Sì, allora con una continuazione allora con Codix. Vabbè, comunque io ho già tentato, l'assegno non me lo danno, mi hanno scritto che praticamente raggiungevo il limite, se c'era Natalina siamo andati insieme al campo quando mi è arrivata la lettera, non c'è problema, le ho pensate tutte, non ti preoccupare. Sì, sì, Marì, ciao, buonasera. No, ma è così come stai dicendo tu, perché mio fratello, inizialmente, prima di avere l'incidente che ha avuto, aveva il 68%, forse il 70%, praticamente non gliel'hanno data perché stava ancora lavorando, oppure gli hanno detto lei va via dal lavoro e noi le diamo la pensione che le spetta del 70% di validità. Mio fratello non ha accettato. Quando poi ha avuto l'incidente che ha fatto l'aggravamento, perché è tutto varedotto, dove ne hanno emissato, l'ha preso in pieno la scuola abuso del comune di Porto Torres, in via Torre Sacchi, ha fatto l'aggravamento, dal 70% è passato al 100%, e quindi gli hanno dato, siccome lui non si è voluto ritirare dal lavoro perché sta ancora lavorando, anziché darle tutta la pensione, quindi 1.200 euro mi pare che le aspettassero, le danno 450 euro di pensione invalidità e più prende lo stipendio normale che è molto più alto, quindi però ogni anno deve fare la dichiarazione dei redditi e quindi le detraggono una parte, ma non gliene frega niente a lui, capito? Lui vuole arrivare col massimo dei contributi perché ha iniziato più grande di me, ma ha iniziato dopo di me a lavorare e quindi anche a lui le mancano 2 anni, penso che avrà in pensione il prossimo anno lui, nel 2018, mentre io sono andato adesso, capito? Quindi è così come hai detto tu. No, già, se no non accettare, che ti dateni una fesseria, una fesseria, capito? Eia. Vabbè, vediamo, valutiamo. Loro stanno dicendo che praticamente, vabbè, una cosa sta parlando è... Sì, scusa, hanno acceso il phon qua già, questo microfono si intende mica il respiro. No, già, ma lo sta bene. Sei legato al patronato, io sono andato, sono molto seri, ti spiegano tutto, ti fanno, è entrato nel sistema dell'Inps, con i miei dati naturalmente, il mio codice d'accesso eccetera, e hanno risposto immediatamente. Io sono già in pensione perché ho già superato il limite contributivo, capito? Mentre invece quando l'età non ce l'ho, però ho superato il limite contributivo, quindi andavo a Matesi, va bene. E come pensione sono abbastanza soddisfatto, tra me e mia moglie è una bella pensioncina, possiamo stare tranquilli, non si muore di fame. Va bene, allora io per il momento vi lascio, che vado a portare il cane, questa mattina è uscito alle 9, quindi dovevo portare, purtroppo non ho manco portato. Se ci siete ci sentiamo dopo. Ok, Nathalie, a te il cambio, fai girare per Capri 2, ci sentiamo dopo. Ok, vai a portare il cane, vai, avanti Gianni. Buona, sì, dovrebbe essere così. Ma io Gianni non è che non lo voglio lavorare, ho delle patologie che non mi permettono più di lavorare. Io ho praticamente la diabete, ed un punto c'è l'uscita diabetica sotto al piede che non vuole in vista, e sto lavorando così perché se no mi licenziano, quindi se riesco ad andare in pensione metto i palloncini a casa. Oh, io stavo parlando con la 50, mi dovete scusare, ma mi stava facendo un QTC. Ah, già mi capite, ti ha chiesto se sei in pensione. Io? Oh, io, se me ne manca poco. Andando in pensione, chissà se sono vivo quando mi danno la pensione. Natalia, perché dici così? A te ti mancano 5 anni andare in pensione per prendere la sociale, più quella di invalidità se non te la tolgono. Ehi, non me la toglieranno, no, è cosa bigliosi, no. Appunto, dici mi rimancano, cosa ti manca? Ti mancano 30 anni, hai 60 anni Natalia, non sei ragazzino, Fra 5 anni prenderai la sociale più quella che hai di invalidità, quindi sono una pensioncina di 700-800 euro. Da voi avete travagliato un abito da bizzino minori, quello per non avere i contributi. Quello te l'ho detto l'altro giorno, che poi non mi ha risposto perché è venuta gente, e purtroppo è così. Si inizia a lavorare da bambini, però senza contributi. Io ho iniziato a 16 anni, assicurato, apprendista, che non mi ricordo questa società Quattro Muri SRL di Pollottorese che cos'è, se era una cooperativa di Polemiche o cosa era, non lo so veramente, perché c'ho anche barista al Bar Cristallo, figurati, barista al Bar Cristallo, ho televisioni, ma un tentore, e lì avevo già, mi sembra, forse 19 anni, 20 anni, non lo so. Poi sono andato fuori, poi sono andato a Cagliari, ho 23 anni lì a Cagliari. Va bene, dai. Ok, sentiamo dopo ragazzi, riprendi Gianni Doppiorù. Ehi, ciao, e io ci avessi dovuto una salita prendere i contributi da tutti i lavori che ho fatto, sarei stato in pensione già da un secolo, perché ho cominciato da giovane, da 16 anni, andavo prima da Kirchi a scaricare le bibite, a portarle nei negozi, poi mi avevo preso come autista, andavo a portarle io, poi ho lavorato da Volcula, ho lavorato la Costa, da Andrea Costa, la Caravan, che era una carovana di scarico alla Temi, e lì però mi aveva assicurato, tutto il tempo che ci sono stato, comunque qualche cosa me l'ha data. Però la maggior parte all'inizio non mi hanno assicurato, poi vabbè ho trovato lavoratore di banca che sono stato assicurato dopo 6 o 7 mesi che ci lavoravo. Oh, già. Ma sai cosa diceva mamma? Non so se te lo ricordi, Gilberto Pirino, Gilberto la Binetta, c'aveva l'impresa assieme al padre di Aldo Fuori, c'erano pochi impresari a Porto Forse, no? Giordo, tutti vecchi, no? Io facevo, ho fatto anche manovale, ce l'ho, manovale, stavo guardando poco fa. Mamma diceva a Gilberto, perché poi si conoscevano ancora, che gli addio a travagliare, non gli dà manco un franco, tu non gli dà nulla, e tu travagli a gratis, l'importante è che tu la assicureggi. Ed era assicurato perché Gilberto mi dava la foglina a paga, allora, che sono messo di bambino, longo, te lo ricordo, e ce l'ho. ce l'ho, impresa Pirino, capito? C'ho anche quello, quindi bisognava stare attenti, andare a lavorare, però sapendo che ti assicuravano, perché è molto importante quello, capito? Ecco perché io 16 anni avevo, e 16 anni l'ho assicurato, la Sarda Elettrovolt, te la ricordi già la Sarda Elettrovolt? Lavoravo con Gavino Gaspa, dove c'era l'ex deposito della Shell nel lungomare, allo scoglio lungo lì alla Renareda, c'era il deposito della Shell. Lì dentro non c'era il francese, Milici, a te lo ricordi, Sarda Elettrovolt, io facevo la premessa elettrauto, purissimo, mi dava la foglina paga e mi dava 5.000 lire alla settimana. I fratelli Mele che ha giocato 6 mesi a nettare officina, a passare le chiavi, apprendista meccanico, anche lì foglina paga e ce l'ho, i fratelli Mele, l'autoclub, la prima concessionaria che è nata a Portoghese della Fiat, i fratelli Mele, in via Sassari. Sì, conosco. Che qui c'è una di quelle moto grosse con il radio, con due antenne, non so se ce l'ha ancora, ma girava sempre con quella moto. Vabbè, ma io ero con il signor Piero, con il signor Salvatore, con il signor Michelino e con il signor Luciano, con i quattro fratelli miei, capito? Che avevano la Fiat, la Land Rover, c'era il signor Michelino che ce l'aveva. Te lo sto dicendo, c'ho tutto. E mamma diceva sempre, tu vai a travagliare, l'importante è che sia assicurato, che isso è il tuo futuro. Se tu non sei assicurato, hai visione, candidato come mossa, capito? E invece aveva ragione mamma, ce l'ho fatta andare in pensione da giovane e governa se Gesù Cristo mi daga e si mette in bocca, ce la biglia in culo, vado a portare il cane, ciao a tutti. Cuomani. Ciao Lucarie, amico mio. Ciao Carlo, ciao già. Qui sono arrivato, manco da ieri da casa. Davvero? Senti, ho visto che eri da anni. No, ci sono lì. Quel circolo c'era karaoke, Vegas e Letta. E niente, abbiamo fatto l'una e poi stamattina mi sono messo a lavorare un po', abbiamo pulito i tubi dalla stufa, presa la mia ragazza, poi abbiamo sistemato i tubi bene, siccome la stufa nuova è leggermente la più bassa, diciamo, il mocchettone, allora ho dovuto abbassare un po' i tubi. E niente, ho fatto tutto, dai, qualcosina l'abbiamo sistemata in casa. Come l'ha presa? Bene? C'era già la prima, solo che quella di prima perdeva un po' là dietro, faceva un po' di fumo. Sì, però è scalda pure, era messa in moto, di lusso. Ma dice che sono queste alla micro, come cacchio si chiamano? Non mi ricordo come si chiama questo materiale, c'è una stufa nuova che scalda un bel, costa di meno del pepe. Ah boh, chi c'è già? Io, Capri2, Marco Condor e Natalino. Avanti, buon cuore. Ascolta, mi serve una scheda video un po' buona, ne hai? Usata, se possibile. No, aspetta, ho capito, una scheda video? Un po' buona, mi serve una scheda video un po' buona. Una scheda, ma per il computer che ti ho dato io? E allora, se quella che c'è è un giocattolo. La scheda sua c'è Natalino. Non lo so, io ho 2 o 3 schede di un amico che gli devo restituire, e siccome gli avevo dato un hard disk, tipo di piccolini, e mi ha dato le nostre schede, dice poi la disk non funzionava, io sto aspettando ancora l'hard disk, ma comunque sono le sue, una è, aspetta ti dico la marca. Io un hard disk ce l'ho, se lo vuoi da un tera. No, vedi, vabbè, la telefono, ma fine ha fatto un disk. Sta di scrivere un nuovo, mi è pacchettato. Vedete, non funzionava, va, tu sei mappa giudizio. Adesso vediamo, se mi dà, sennò... Io la quella di scrivere avevo pagato 55 euro, quella di scrivere. Ed era di quel computer fisso che ho venduto a un tipo lì nella zona bassa per terra del mondo. Ehi, vabbè, comunque se lui non dà ancora un raggio, disponibile, non c'è problema. Cosa mi ricordo? Allora, una è, allora, aspetta, Sapphire HD 2006 XT, Sapphire. Ehi, ho capito. la ventola, eh? Yes, con la ventola. E sembra che è carina come cosa, è bella, Sì. E vabbè, e cantura lui. Sai, questa bisogna provarla prima, però. Poi ho un'altra. Però, aspetta, Allora, questa qua, la Sapphire, c'ha l'ingresso diverso. C'è l'uscita del... vabbè, dove tu inserisci il capo del... del coso, del... ma... del monitor. Però c'è l'adattatore, volendo, si può... c'è l'uscita a VGA, diciamo, dai. C'è stato un break, avanti. Diciamo, dai, avanti, non ho capito nulla. C'è troppo ecco. L'avete capito voi, mi fate la foto. Ma te è profondo. Sarà un 15 cm di profondità. E io adesso guardo, va. Comunque sono andata lì, due ventilate e una con il dissipatore. Io ho capito. E l'altra com'è? L'altra è ventilata, sempre con ingresso, se non ricordo l'ingresso abbia, non mi ricordo come si chiama. Comunque non è VGA, ma c'è l'adattatore comunque, dai. Fa uscita VGA. E vabbè, va, cantura voi. L'importante è questo, perché non mi fa aprire un programma perché dice che la scheda video non va bene. Sta di provare che non si va bene, la televisione di software, magari non andava. Purtroppo la scheda video è... Che programma è, scusa? Un simulatore di volo. Uno simulatore di volo, se non c'è una video buona. Ma comunque da allora provi, dai, vedi un po', come fai a sapere. Sì, infatti, dai, già vediamo un po' di fare qualcosa, se no bisogna compararla. E mi sa che non ti sente, tanto io lo senti a Eugenio. Allora, ma cosa sente lui? Ma è abusivo, che già lo sento io a Eugenio. Ciao Eugenio, non so se mi sente lui però, perché io sono basso. Allora, in profondità è 34, però bisogna tenere conto che ci sono dissipatori dietro, e adesso te li misuro. E adesso di larghezza è 50. Prego, aspetta che ti misuro i dissipatori, perché se tu devi guardare la profondità devi controllare anche che ci sono i dissipatori che sporgono, aspetta. Mica c'è un toc toc, mi. Rincomi, faccio un po' di regolazioni sul menu. Buonasera a tutti, quanto capito Cesare, Eugenio, Luca, vedo che hai regolato il bip, l'hai regolato lungo. Ricordati, se lo vuoi breve, proprio un tocchettino tipo Colt, metti 3000 Hz e 100 millisecondi. Ma poi te lo puoi fare come vuoi tu. Scusate la mia assenza, ma stavo parlando con mamma in conseguenza a quello di cui stavo parlando con mia zia al telefono, dai, un attimino. Va bene, non so più chi c'è rimasto. Gianni, fai il coso della situazione. Chi è rimasto? E c'è anche Luca. Io saluto Elio. Buonasera Elio, mi hai sentito un po' tanto. Ci fa sempre piacere risentirti. Oh, Eugenio, 39 col dissipatore che c'ha dietro. Cappa, prego. Elio. Buonasera, mi ha ascoltato. Ma cosa c'è? Eugenio, porto il tuo messo. Ma stavo facendo il mio. aspetto, non so se è segnato, perché se c'è scritto M-Mod è anche facile, ma se non c'è scritto nulla bisogna cercare su internet, perché io l'avevo fatto vari anni fa e non me lo ricordo più. Poi sai, si fa una volta, poi si chiude tutto e non si tocca niente, non si tocca più niente. Va bene, vai Natale, riprendi tu, dai. Purtroppo ho perso il filo della filologico di tutto il discorso al baracchino, dai, che stavo parlando con mamma. Asco, io mi sto mangiando quel budino che ti ho detto poco fa. Lagami va. Mangia, leccati anche il fondo del piatto, mi. Come faccio io che mi lecco il contenitore del budino? Ma questo l'ho fatto io. Meglio, è ancora più buono. Ah, brutto cocco, male. Ti hai fatto il buio, ti hai fatto, eh? E non inviti. E a chi tu, invitato mai quando vi era tutta chi da roba buona? Tu vai a fare, non è un problema. Tre piani di fammi, a fine. Avanti. Stai uscendo male, ho capito, è alzato troppo. Cappa. Povero, era in gamba, che c'è Angelino, la verità, mi ha detto se restavo che mi raddoppiava lo stipendio, non c'era stato io perché dovevo tornare a scuola, avevo fatto, facevo d'estate, lavoravo, là. Ok, ciao, allora Gianni, mangio anch'io adesso il budino, ciao a tutti, a dopo. Io riprendo, dai, mi saluto tutti che devo portare giù il cane, tu ci dai campagna e di una futti, anche se c'è la cucciolata, tutta ce l'hai ancora. Ciao, no, su 9-3 già sono messi, adesso ci l'ho pubblicato solo su Facebook, la verità, non ho ancora messo sui siti e la cucciolata. Sono belli, li ho visti, se non avessi avuto il mio te l'avrei preso io. Andava bene, e io via, non so che ci sia arrivato, comunque mi sembra, va. E io sono qua. E vabbè, comunque c'ho anche a Capri 2, ma sto andando bene, sì. E siamo io questa cosa, no? Vediamo. La radio va bene, sì. Sì, lo assurdo, sta assurdo, va bene. Va benissimo. Ho visto che stai facendo roba barruto, che aggiusti i camini, stufe e roba del genere. Non ho capito che sono. Che ti stai andando ad aggiustare stufe. Non viene travaglio, questi invece andiamo a burro. Sono, diciamo, non dico attrezzato, lo spazzolone per pulire i tubi, l'aspiracenere, capito? Niente, cosa fai già? I ferri ce li ho quasi tutti, moto, piazzo, basta che mi magari e non posso. Niente da dire, c'è da mirare che te li inventi la burro. Allora. Già, se capita qualcosa da fare, qualche televisore da riparare, se è fattibile lo riparo, se no, ho un'ampa, di solito sono le schede a cambiare, le schede dell'alimentazione, quelle vecchie di qualche anno addietro no, quelle si possono riparare, però queste nuove purtroppo no. Perché se tu lo smonti, vedi che la scheda è nuova, non ne capi in piede perché non trovi, solo un tecnico bravo riesce a ripararla, sostituendo il microcomponente, capito? Vabbè, se dove si basta si arriva, no? Ho capito già. Se dove basta arrivi, ho detto. Vabbè, comunque qualcuno l'ho riparato, va. Tipo questo vecchio io qua, è mio, che... c'era la scheda da cambiare e l'unica era quella. L'ho cambiata e a voi funziona benissimo. È un 42 pollici, schermo piatto. Però anche un po' pesantuccio, eh. E niente, vabbè. Lo che buttano è buttarlo, ma lo sono sistemato. Ok, dai, vi lascio io, devo andare a portargli il cane, ci sentiamo, ciao Elio, ciao KP2, ciao anche Gianluca, dai. Buona serata a tutti, buona continuazione, ciao. Ciao già, ma proseguo. Ciao Natali, scusami, mi sono dimenticato di te, ciao ciao. Lo so, tutti si dimenticano di me. Dai, se vieni a casa ti faccio caro un caro. Non risponde. Scusa, sto mandando un audio WhatsApp. Peppino di Capri, io ho fatto questa connessione.